La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. Con l'approfondimento di Dino Pesole prosegue il nostro viaggio intorno al ruolo della musica nella storia sociale italiana. In compagnia di Paolo Prato, docente di musica, comunicazione e cultura presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ci occuperemo in questo terzo e ultimo appuntamento degli anni che vanno dal secondo dopoguerra al miracolo economico della fine degli anni 50. La storia d'Italia raccontata attraverso la musica. È il viaggio che abbiamo intrapreso due settimane fa, traendo spunto dal libro scritto da Paolo Prato per Donzelli, dal titolo La musica italiana, una storia sociale, dall'unità a oggi. Un viaggio che ci ha condotto insieme prima ad approfondire il ruolo, per così dire, unificante della musica negli anni che precedettero e seguirono il raggiungimento dell'unità nazionale nel 1861, di cui, come sappiamo, quest'anno celebriamo il 150° anniversario. La musica, in qualche modo, riuscì allora a unire un paese che faticava a trovare una sua identità sociale e culturale, ancor prima che politica ed economica. La scorsa settimana il nostro viaggio ci ha condotto negli anni del ventennio fascista e così abbiamo scoperto che se nei primi anni del regime di fatto non ci fu una vera e propria politica musicale, dal 1938 in poi, anno del varo delle leggi razziali, e poi dal 1940, quando Mussolini avviò la sua disastrosa avventura bellica al fianco della Germania nazista, lo scenario mutò completamente. Di fatto anche la cultura in tutte le sue espressioni subì i duri colpi delle scelte politiche compiute dal duce. La radio e tutti i principali strumenti di comunicazione furono ancor più asserviti al regime. Oggi, nel nostro terzo e ultimo appuntamento dedicato alla storia italiana attraverso la musica, soffermiamo la nostra attenzione sugli anni che vanno dal secondo dopoguerra al miracolo economico della fine degli anni 50, anni decisivi per il nostro paese. Lo facciamo nuovamente in compagnia del professor Prato, che salutiamo. Bentornato, professore. Grazie. Bentrovati anche a voi. Come sta? Grazie per averci accompagnato in queste tre puntate. E beh, è un piacere, naturalmente. Professor Prato, che ruolo ebbe la musica in un paese che usciva distrutto dalla guerra e che provava, con la ritrovata democrazia, a giocare il suo ruolo a livello internazionale in un mondo, come sappiamo, diviso in blocchi contrapposti? Da un lato i paesi della NATO, dall'altro i paesi satelliti dell'Unione Sovietica. In poche parole era la guerra fredda. Ecco, la musica che ruolo ebbe in Italia? Ebbe un ruolo di grande importanza come collante, innanzitutto, soprattutto per quelle fasce sociali che erano state più colpite dalla guerra, e al tempo stesso ebbe un ruolo all'interno appunto della dialettica fra americanizzazione progressiva dell'Europa e del nostro paese e appunto tutto ciò che stava al di fuori. Ma andiamo per ordine. La musica rappresenta un miraggio di riscatto sociale per moltissime persone. A me piace sempre in questi casi citare una canzone che è anche di qualche anno successiva e viene dal repertorio inglese, però viene a fagiolo. I Rolling Stones cantavano: che cosa può fare un povero ragazzo se non suonare in una rock and roll band? È un po' l'idea di fondo che agita i giovani e i meno giovani del dopoguerra, che con una bella voce, con la possibilità, con la capacità magari di saper suonare la chitarra, forse si può cambiare la propria condizione. Non a caso è quello il periodo in cui l'Italia intera è attraversata da una miriade di festival canori, di rassegne per giovani talenti, roba che farebbe impallidire anche l'attuale palinsesto televisivo che in quanto ha, diciamo, programmi che lanciano nuovi talenti, non ha nulla da invidiare a nessuno, ecco. E non a caso il Festival di Sanremo, che in qualche modo corona questa stagione di aspirazioni, arriva nel 1951 per poi passare alla televisione nel 1954. C'è poi appunto la problematica dell'americanizzazione, dell'importazione dall'America di nuove mode, nuovi suoni, nuovi costumi, nei quali la musica occupa naturalmente un ruolo centrale, perché arrivano i dischi. E quindi l'Italia del dopoguerra incomincia a conoscere la musica anche, e sarà sempre di più così, attraverso i dischi, oltre che alla radio, che invece aveva caratterizzato fortemente il periodo precedente. Ecco, infatti, se possiamo dire che la musica nazionale in quei tempi era quella di Nilla Pizzi, Claudio Villa, dobbiamo aggiungere però che le suggestioni che venivano d'oltreoceano erano fortissime, come mostra l'avvento del rock and roll, e non solo, come lei stesso scrive nel suo libro. Negli anni 50 il mercato della musica assume sempre più un'impronta internazionale. Gli artisti circolano con più facilità grazie al varo delle prime aerolinee intercontinentali. Le case discografiche più attrezzate aprono filiali in Italia e le etichette domestiche stipulano accordi di licenza per vendere i cataloghi di quelle che ne sono ancora prive. E così le preferenze degli italiani cominciano a dividersi fra successi di casa e successi stranieri, qualcosa di impensabile 15 anni prima, quando le rare canzoni americane, francesi o spagnole venivano tradotte e reincise da voci nostrane. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you. Professor Prato, cosa significò questo mutamento nelle scelte musicali degli italiani negli anni 50? Beh, significò che intanto con l'arrivo dei dischi di rock and roll, abbiamo appena ascoltato la voce di Elvis Presley, i giovani si organizzarono in maniera diversa, imbracciarono le prime chitarre elettriche, si attrezzarono nei garage con i primi rudimentali amplificatori altoparlanti e effettivamente prendeva vita un modo diverso proprio di concepire la musica, che porterà poi al grande, diciamo, trionfo della fine degli anni 50 di Domenico Modugno con il suo blu dipinto di blu, che sarà il primo e più clamoroso successo italiano di tutti i tempi, ma soprattutto successo all'estero. Quindi noi importavamo i suoni, gli strumenti, le mode straniere, ma in quel periodo siamo riusciti anche a restituire alcuni prodotti genuini che erano profondamente italiani, ma al tempo stesso parlavano una lingua anche internazionale. E questo fenomeno non è esclusivo della musica e dei dischi, sebbene durò una brevissima stagione, ma fu anche esteso soprattutto al cinema. Il cinema italiano, come sappiamo, in quel periodo aveva una visibilità internazionale straordinaria. I nostri migliori attori erano invitati a Hollywood e recitavano sotto la guida dei più grandi registi americani. Poco fa, professore, le faceva riferimento all'avvento della televisione, che ovviamente rivoluziona anche il modo stesso di accostarsi alla musica. Ecco, in che modo avviene concretamente questo ulteriore, che potremmo definire storico, passaggio? Certo, la televisione riassorbe le peculiarità che erano della radio, quindi l'ascolto domestico, la domiciliazione, della musica, ma al tempo stesso la televisione stimola tutta una nuova serie di prodotti culturali, spettacolari, di intrattenimento, che hanno naturalmente la musica e in particolare la canzone al centro delle proprie mire. E, diciamo che oltre al Festival di Sanremo, che in qualche modo potremmo considerare un'eredità della radio, la televisione soprattutto inventa alcuni format che poi si riveleranno vincenti per altri 50-60 anni. Parlo del quiz musicale, rappresentato dal musichiere, di cui alcuni esempi continuiamo a fruire al giorno d'oggi. Parlo del famoso show del sabato sera, che è centrato attorno alla presenza di ospiti, di cantanti e di balletti, ed è in qualche modo un modo per riconfezionare il vecchio varietà, il teatro di rivista, che si esaurisce nei luoghi deputati e viene reinventato proprio nel piccolo schermo. Professor Sprato, grazie tante, professore, per essere stato con noi per ben 3 puntate. Siamo convinti che anche i nostri ascoltatori abbiano apprezzato questo viaggio che abbiamo condotto insieme in 150 anni di storia italiana attraverso la musica. Grazie a voi, grazie davvero per l'invito, graditissimo, e in bocca al lupo con il resto delle vostre trasmissioni. A presto, grazie. Grazie. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh.